Magazine 24, la rassegna dei settimanali. Buongiorno, ben svegliati, sono Nino Ciravegno, Sole 24 Ore. Comincerei la nostra rassegna dei periodici partendo da Panorama. Ci sono tre personaggi che vi voglio segnalare perché sono tre storie interessanti. La prima riguarda Alberto Bombassei, il vicepresidente di Confindustria, e dice: da imprenditore promuovo Giulio. Giulio Tremonti non è un simpaticone, a volte è costretto a dire cose che non pensa, ma ci ha salvato dalla crisi e come me è un liberale, ma non troppo. Panorama inizia con una intervista che trovo molto interessante, che dice: vorrei provare a farla litigare con il ministro dell'economia Tremonti. Lui dice: impossibile, il giudizio sul ministro dell'economia è più che positivo. La sua azione è stata apprezzata da tutti in Europa e quindi non ho alcuna intenzione di litigarle. Ma la crisi l'abbiamo superata, la fase più brutta è stata superata ed è merito di Tremonti. Però Tremonti ha detto che preferisce i posti fissi a quelli flessibili, mentre invece lei pensa il contrario. Ogni tanto in quella posizione bisogna dire cose che non si pensano fino in fondo. Ma ci sono due caratteristiche del ministro dell'economia che fanno arrabbiare i suoi colleghi di governo. La prima è la simpatia. Beh, oggettivamente non è un gran simpaticone, però solo per chi non lo conosce, risponde Bombassei, perché chi lo conosce e lo frequenta lo trova una persona molto gradevole, che ha un umor particolare ed è molto raffinato. La seconda è che, dice Panorama, Tremonti non sa fare gioco di squadra. Bombassei risponde: beh, lui è un fuoriclasse e probabilmente fa fatica ad amalgamarsi con i suoi colleghi. Poi prosegue questa lunga intervista chiacchierata di Bombassei, che è il classico presentato da Panorama come l'archetipo dell'industriale italiano, di come dovrebbe essere. Si è fatto da solo, leader mondiale nel suo settore. Lui produce freni per auto che equipaggiano quasi tutte le auto di Formula 1 e le moto di Gran Premio. È un duro, nel senso che non ha mai avuto un rapporto eccellente con i sindacati, neanche con la politica, però non rinuncia a dialogare sia con i sindacati che con la politica. Un'altra cosa di Panorama che vi voglio segnalare, più una curiosità che una notizia: Carlo Vanzina, che è il regista dei più famosi cinepanettoni che siano stati fatti in quest'ultimo periodo, dice: mi piacerebbe avere Rutelli sul set, lo farei diventare il nuovo Alberto Sordi. Non conoscevamo la capacità di Rutelli di recitare, però Vanzina è uno che se ne intende. Un altro personaggio che fa delle proposte interessanti è Gianmario Rossignolo, che dice: la Fiat va bene andarsene dalla Sicilia, ma io costruirò lì auto di lusso. Rossignolo ha presentato un progetto per costruire auto della De Tomaso a Termini Imerese, dove la Fiat sta costruendo adesso con poco successo le Panda, e dice: assicuro di avere le tecnologie adatte. Dice: il mio sistema si chiama Univis, è una tecnologia che permette di sviluppare una scocca da un'auto da due profilati estrusi, una specie di gabbia che riduce drasticamente gli investimenti per produrre una nuova vettura. Dove col metodo tradizionale occorrono 300-350 stampi, con la mia tecnologia ne bastano 30 o 35, quindi invece di spendere 350-400 milioni, io posso spenderne solo 35 facendo grandi auto di lusso. Questo è un sistema che per il momento non è stato sperimentato, però Rossignoli ha una lunga esperienza di 35 anni nell'industria automobilistica, chissà che non funzioni. Il terzo personaggio che vi segnalo di Panorama, a cui è dedicata anche la copertina, è Nerio Alessandri, quello che ha inventato il Tecnogym. Da un garage di Cesena, un magazzino, il primo attrezzo. Oggi quegli attrezzi hanno invaso le palestre di mezzo mondo e le non i big della terra. Dice Panorama: il ragazzo diventato padrone di un impero chiamato Tecnogym non si ferma, vuole costruire la Disneyland del wellness e rendere la ginnastica obbligatoria per legge. E c'è lo slogan di Nerio che dice: Dio ci ha creati per stare in movimento. Lasciamo Panorama, passiamo a Newsweek. Newsweek è la copertina dedicata al miglior paese del mondo, con tutta una serie di classifiche internazionali che, devo dire sinceramente, lasciano un po' il tempo che trovano. L'Italia si piazza al 23° posto tra i migliori paesi, dietro Israele, la Spagna e altri paesi come la Sud Corea, di cui non è nota a tutti la qualità della vita. L'Italia nelle classifiche settoriali si piazza meglio, appunto nella qualità della vita al 6° posto, appena al di sopra della Russia. Questo la dice lunga sulla parziale affidabilità di questi indicatori presi in rassegna da Newsweek, e ci mette al 10° posto tra le grandi economie per il dinamismo economico, alle spalle però di Thailandia e della Russia. Anche in questo caso le statistiche lasciano un po' il tempo che trovano. Passiamo a oggi. Oggi la copertina dedica la copertina a Fini e Famiglia, ritratto in esclusivo con l'unica fotografia di Fini con la famiglia Tulliani. Si vede la compagna Elisabetta con i due figli, il cognato con la fidanzata, i suoceri. E oggi dice, ecco, l'unica foto esistente del gruppo di parenti che ha inguaiato l'avversario numero uno del Premier. All'interno ci sono 10 domande sul caso Fini, partendo dall'appartamento in affitto al cognato fino all'intervento del Presidente della Repubblica, così una leggerezza mai chiarita è diventata un affare di Stato che sta trasformandosi in un terremoto politico. Oltre alle 10 domande, però, oggi dedica un ampio servizio al suo avversario Berlusconi, col titolo Berlusconi ci ricasca. Come Villa Certosa 3 anni fa, chi è la misteriosa dama incappucciata? Una scenetta che non si vedeva più da tempo, scrive oggi il Premier in compagnia di belle ragazze nel parco di una delle sue ville. Ecco come stanno davvero le cose. E si vedono queste fotografie di Berlusconi attarniata non solo da belle ragazze ma anche da agenti di sicurezza e carabinieri che poi salgono sull'elicottero per partire e tutti si chiedono chi sia la nuova fiamma del cavaliere. Passiamo a Vanity Fair. Copertina dedicata a Robbie Williams che racconta come questa donna mi ha salvato. In abito aveva detto non mi innamorerò più, aveva detto non ce la farò mai, poi è arrivata Avda che gli ha fatto cambiare idea su matrimonio e sulle storie. Ma al di là di questi lunghi servizi dedicati a personaggi che francamente non mi appassionano, vorrei segnalare un lungo articolo su Tarak Ben Ammar, l'imprenditore tunisino che ha studiato negli Stati Uniti, ha imparato a fare cinema a Hollywood, appassionato di finanza, in Italia è famoso anche perché consigliere di Mediobanca, e fa l'ambasciatore di Berlusconi nel mondo arabo. E adesso ha in progetto un film che lancia un messaggio di pace. Questo film, che tratta da un libro di Rula, che è una palestinese di nascita con passaporto israeliano naturalizzata italiana, racconta il Medio Oriente, in particolare il dramma palestinese e israeliano, visto attraverso gli occhi di un palestinese che però vuole e cerca la pace, un modo originale per raccontare il dramma del Medio Oriente. Continuando e sempre restando in tema, c'è un lungo servizio dedicato nella parte dedicata ai turismo e ai viaggi, dedicato giusto appunto a Gerusalemme, cartolina della città che è l'inizio del mondo e proprio per questo è la città più contesa del mondo. Eppure tra le stradine più antiche della capitale israeliana si possono afferrare i misteri dell'anima. Basta non chiedere, scrive Vanity Fair, che ore sono. Dice Gerusalemme il centro del mondo, anzi l'inizio del mondo. Gerusalemme è Bereshit, l'inizio di tutto. Lo si respira camminando per le strade strette della città vecchia, attraversando diversi quartieri ebraico, cristiano, musulmano, armeno. Bereshit è la prima parola del primo libro, dei 5 che costituiscono la Torah. Significa in principio. In principio Dio creò la terra e creò Gerusalemme. La mattina presto, consigliava Vanity Fair, quando il sole appena levato, bisogna arrampicarsi sulle mura che circondano la città vecchia e camminare lungo tutto il perimetro, respirando la città che si sveglia. È un'emozione che non vi abbandonerà mai. Cambiamo ancora giornale e ci soffermiamo sulla lettura di Focus, molto interessante e come al solito molto divertente perché alterna servizi scientifici di elevato spessore a grandi curiosità più o meno piccole che comunque destano sempre l'attenzione. In particolare vi voglio segnalare un servizio fotografico eccezionale sulla rotta del ghiaccio. Oggi è diventato possibile navigare nel mitico passaggio nord-ovest anche agli scienziati che vogliono studiare gli effetti del caldo globale sul polo nord. Sono fotografie spettacolari di un rompighiaccio che attraversa queste immense distese di ghiaccio con scienziati che fanno ricerche, che recuperano materiale, che analizzano la qualità dell'ambiente. E dice il 2007 i ghiacci artici si sono ridotti del 40%, è stato l'anno nero del polo e secondo alcune stime l'Artico potrebbe perdere tutti i ghiacciai entro il 2030 invece che nel 2050. Un viaggio spettacolare che senz'altro aumenterà la nostra curiosità, così come scatena la nostra curiosità il servizio che hanno dedicato sul tempo che perdiamo. Passare un minuto, scrive Focus, facendo un caffè è poco, ma moltiplicatelo per tutti i caffè di una vita e l'attesa diventa di 35 giorni. E racconta come fare benzina, ci vogliono 10 minuti, passiamo 25 giorni della nostra vita a fare benzina, o 6 giorni per allacciarci le scarpe, 50 giorni per andare in ascensore, 69 giorni aspettando che arrivi il verde del semaforo, oppure 53 giorni per lavarsi i denti 3 volte al giorno e 5 giorni per inserire la password al computer. E questi sono solo alcuni degli esempi che i colleghi di Focus hanno calcolato su tutte le nostre attività su una vita media di 70 anni. Magazine 24. Bene, riprendiamo la lettura dei nostri periodici. Ancora due piccole brevi segnalazioni da Focus. La prima riguarda l'energia oscura della mente, a cui è dedicata la copertina, con una lunga analisi sulla scoperta del cervello, una rete in costante operosità, potrebbe essere il nostro regista occulto e svelare molti segreti. Focus scrive che la scoperta dell'energia oscura del cervello si sta rivelando molto profonda, può aiutare a comprendere il funzionamento non solo del cervello ma anche di diverse patologie mentali e aprire nuove prospettive per chiarire cos'è la coscienza. Come dicevo, Focus alterna grandi servizi e grandi approfondimenti con curiosità più o meno spicciole e molto divertenti. Ve ne segnalo un paio. Per esempio, lo spazio ha un odore inconfondibile di bistecca, secondo la NASA, oppure che la Shell, una delle maggiori industrie petrolifere mondiali, nacque come piccolo negozio a Londra e vendeva molluschi, oppure che oltre metà delle donne mette in valigia più di 50 capi di abbigliamento per una settimana di 2 vacanze, e quindi nel casino di Las Vegas, ultima segnalazione, non sono mai esposti orologi, così nessuno ha la tentazione di tornare a casa velocemente. Lascerei adesso Focus per passare a Grazia. Grazia ovviamente dedica la copertina alla nuova eleganza col titolo Come sexy la tradizione. Non mi addentro su questi temi, su cui confesso la mia ignoranza. Segnalo due articoli. Uno, una lunga intervista a Mark Tyson, il campione del mondo di pugilato. Ho dato un pugno al passato, e scrive Grazia, come pugile ha vinto tutto, fuori dal ring invece ha perso tutto, anche i 200 milioni che aveva guadagnato con la sua attività sportiva. E ha lottato contro il carcere, la bancarotta e la cocaina. Mike Tyson però giura di essere cambiato, niente più cazzotti, basta con le sciocchezze, ora sono un pacifista convinto. Mike Tyson racconta il suo cambiamento, racconta la sua conversione all'Islam. Evidentemente l'Islam affascina molto i pugili, anche Cassius Clay si era convertito prendendo il nome di Muhammad Ali. Racconta che gli piace molto l'Italia, in particolare gli piace molto la moda di Roberto Cavalli, e racconta i suoi prossimi impegni che comprendono anche il cinema. Un altro personaggio raccontato da Grazia è Chiara Noschese, la figlia del grande Lichiero Noschese, che dice, il titolo è Adesso Meryl fatti più in là. Chiara Noschese dà la voce a Cameron Diaz e avrà il ruolo di Meryl Streep nella nuova versione di Mamma Mia. E racconta al provino, ho tirato fuori la selvaggia che è in me. E intanto gli autori delle canzoni di Mamma Mia, componenti del gruppo ABBA, raccontano che non vogliono più tornare sul palco, hanno rifiutato cachet miliardario per suonare insieme, dicono meglio levare cavalli, scrivere musical e fare i nonni piuttosto che tornare sulle scene. Un'ultima segnalazione su Grazia è un'intervista con Guido Falk, il figlio dell'industriale Guido, era dell'acciaio e dell'attrice Rosanna Schiaffino, che racconta il lavoro meglio inventarlo che cercarlo. In questa intervista Guido Falk racconta come è nata la sua azienda, con la domanda che in 2 anni ha raggiunto 2 milioni di fatturato. Come si fa? Gli chiede Grazia. Lui dice lavorando come matti anche nel fine settimana, cercando di fare cose che ci piacciono molto, con soci che sono i tuoi migliori amici, avendo un po' di fortuna, come è capitato a noi. Guido Falk, quasi laureato in economia, ha smesso di studiare per dedicarsi a questa attività. E dice, ma com'è nata questa idea? Nell'estate del 2007, dice, ero a Miami, e siamo entrati in un negozio e abbiamo visto un cuscinetto che è collegato all'iPod amplifica il suono, idea carina ma era in un pessimo materiale, colore orrendo e cassa di qualità scadente. Siamo tornati in Italia, ci abbiamo ragionato, abbiamo progettato e abbiamo trovato poi un produttore cinese, continua Guido Falk, che lo ha costruito rispettando i nostri standard di qualità e di prezzo. Risultato: in poco più di un anno ne abbiamo venduti 150.000 pezzi e adesso abbiamo avviato altri prodotti, sono già 11. Il prossimo sarà un telomare che fa da speaker e che diventa uno zaino e si chiamerà iGeorge. iGeorge è il nome di suo padre, sì, e non so se ne sarebbe contento. Il tuo messaggio per i giovani? Chiede Grazia e le dice: ovviamente bisogna inventarsi il lavoro perché cercarlo è impossibile, ma onestamente devo dire che senza qualche soldo non si va da nessuna parte. Noi siamo partiti con 200.000 euro, la metà me l'ha data mia mamma. L'altro problema è avere la possibilità di rischiare, cioè di perdere un anno o due senza avere pressioni della famiglia, che non tutti possono avere. Su Sorrisi Canzone TV vi segnalo la copertina dedicata a Simona Ventura, che dice: sta per ripartire con quelli del calcio, prepara un'isola dei famosi piena di sorprese. Articolo interessante, una curiosità più che un articolo, è che Beautiful, la serie che da 20 o 30 anni impazza sulle televisioni di tutto il mondo, cambia un po' registro e dicono forze fresche rivitalizzano la shop, per cui un gruppo di giovani andrà ad affiancare i personaggi che francamente erano diventati un po' vecchi, un po' frusti. Un'ultima segnalazione su Sorrisi Canzoni TV annuncia: aiuto, l'Orco Verde è in crisi di mezza età, arriva il quarto episodio di Shrek nelle sale italiane dal 25 agosto. Il simpatico bestione, scrive il giornale, è stufo di applausi e rimpiange i vecchi tempi quando incuteva timore, e a questo punto incominciano i guai. E racconta come la quarta avventura di questo gigante, che all'inizio era cattivo e poi mano a mano si era poi innamorato ed era diventato quasi simpatico. Evidentemente la simpatia non va bene per i botteghini del cinema. Mi permetto di tornare a segnalare anche Il, di cui avevo parlato ieri, il mensile del Sole 24 Ore. C'è un articolo che mi sembra molto interessante e che riguarda i cani. Il titolo è Oh My Dog. Si fa presto dire Fido, scrive Il. Decidere di prendere un cane e scegliere quello giusto sono passi importanti. Siete tentati? Ecco le 10 cose che dovete assolutamente sapere per evitare sorpresi e ripensamenti. C'è tutta una lunga analisi con anche fotografie bellissime sull'addestramento dei cani, che spiegano, raccontano come fare per scegliere e soprattutto come fare cercare di addestrarlo, con anche un consiglio molto utile come: perché non fare un salto nel canile? I volontari conoscono perfettamente gli animali e le loro necessità. Ma poi c'è la scelta anche di cani grandi, piccoli, come fare, dove portarli, la dieta e tutto quello che avreste dovuto sapere sui cani. Anche Focus parla di cani. È una coincidenza abbastanza strana, perché generalmente non capita spesso che ci siano due mensili così diversi che abbiano lo stesso argomento. Focus però affronta il tema dei cani con un occhio completamente diverso. Il titolo è Nuovo Fido e racconta: in campagna lavorava per noi, di guardia o a caccia. Ora vive in città e fa quasi sempre parte integrante della famiglia, spesso nel ruolo del figlio. È più intelligente, scrive Focus, socievole e viziato, ma la società costa troppo. E i colleghi di Focus si sono presi la briga, come nella loro capacità, la loro specialità, hanno calcolato minuziosamente quanto inquina avere un cane e sono arrivati alla conclusione che un cane inquina più di un SUV, con tutta una serie di parametri e di tra diete e gadget. Un cane occidentale consuma più di quanto faccia metà dell'umanità. E ci sono tutta una serie di calcoli anche dedicati sui consumi di animali, di cani di grande dimensione, di piccola, eccetera, eccetera. Ma però, e dice, il cane consuma più di un SUV, un gatto invece è come guidare una Golf per un anno. Tipico di Focus fare questi calcoli, queste analisi molto molto dettagliate, al limite della pedanteria. Torniamo ancora su Oggi, perché è un servizio di molta attualità. Molti di noi hanno fatto le vacanze sotto la pioggia. Agosto è stato un mese climatologicamente pazzo, e difatti il settimanale mette in evidenza che clima pazzo, che cosa sta succedendo. In poche settimane il mondo è stato colpito da una raffica di disastri, e con un servizio molto bello, con delle fotografie spettacolari, dice: agosto inquietante quello che stiamo vivendo, una sfilza di calamità si è abbattuta sul globo tutte insieme, come in un film catastrofico zeppo di effetti speciali. Prima un gigantesco iceberg grande più o meno come l'isola d'Elba si è staccato dalla Groenlandia e ora potrebbe approdare nell'Oceano Atlantico, creando gravi problemi alla navigazione. Poi il monsone in Asia, che ha generato piogge bibliche nel Pakistan, all'India, e rovesci che hanno causato frane devastanti, compreso anche numerosi morti, tra cui un italiano. Rovesci che hanno causato frane devastanti anche in Cina, una delle quali ha sepolto centinaia di persone. Sulle vette dell'Himalaya si sono registrate temperature di 40 gradi con scariche di sassi e valanghe che hanno costretto un numero enorme di turisti a scappare. Piogge torrenziali anche nell'Europa centrale, mentre la Russia ha visto il suo grande territorio prendere fuoco, passando dai meno 30 gradi di quest'inverno ai 40 passa degli ultimi giorni, con gravi ripercussioni anche sui raccolti di grano. Ripercussioni che poi si sono scatenate sui mercati internazionali, tant'è che le quotazioni si sono impennate, e per la prima volta da decenni e decenni la Russia quest'anno sarà costretta a importare grano. La Russia era storicamente considerato il granaio del mondo. L'analisi di oggi sul clima pazzo, corredata da una serie di fotografie, comprese le fotografie dal satellite che ci fanno vedere l'iceberg immenso, grande 4 volte l'isola di Manhattan, o la lunga colata di cemento, di fango che c'è stata in Cina. Ci sono state tutte piogge che hanno causato disastri ambientali, sia in Asia ma anche in Europa. Per esempio c'è un castello, un famoso castello tedesco, che è stato inondato e il suo parco storico è stato praticamente distrutto. In tutte le parti del mondo ci sono stati questi disastri, e il settimanale si chiede: torniamo all'interrogativo, che succede? È inevitabile che non si tratta di fato, ma ci sono diversi elementi che sono intervenuti a cambiare il quadro naturale rispetto a qualche decina di anni fa. Gli eventi estremi sono uno dei modi con cui si manifestano palesemente, scrive oggi, i mutamenti climatici in atto, anche se non è possibile affermare che non siano già avvenuti 200-300 anni fa. Questo è il commento del più grande meteorologo belga, Yves Pascal, per il quale eventi del genere si ripeteranno con sempre maggiore frequenza nel prossimo futuro. Infine chiuderei la nostra rassegna con 4 ruote. Il numero di agosto dedica l'editoriale d'addio di Mauro Tedeschini, un collega molto bravo che per una decina di anni ha diretto il più famoso mensile dedicato alle automobili. Vi segnalo un paio di articoli piuttosto interessanti. Uno è dedicato alle auto ibride a passo di ricarica. Vi presentiamo, scrive 4 ruote, in anteprima il test di 2 auto del grande futuro: la Smart in versione elettrica e la Prius ibrida ricaricabile con la spina. Presto saranno disponibili, conviene farci un pensierino. C'è tutta l'analisi tecnica, tecnologica e anche di consumi che sono caratteristici di 4 ruote. C'è questo grande ritorno del motore a 2 cilindri che aveva caratterizzato la prima Panda o la Citroën Visa e la 126, che un po' Gesse le ricorda, ma non c'è nulla a che vedere con questi motori piuttosto rumorosi, piuttosto elementari di 30 anni fa. La Fiat rilancia il bicilindro con un motore da utilitaria tecnologicamente avanzato, e che probabilmente, grazie al bassissimo rumorosità e a consumi molto contenuti, farà parlare a lungo di sé. Bene, questo è tutto, vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro una buona domenica e un buon rientro per chi è in vacanza.